9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 14 di giugno e auguri a coloro che si chiamano Eliseo. Allora, se mi chiedeste che cos'è che stamattina presto mi ha fatto più saltare sulla sedia, è stato leggere un editoriale, anzi una colonna che scrive per lo Spiegel sistematicamente Wolfgang Münchau, che è una firma anche del Financial Times, Euros, come sapete, e in questa Wolfgang Münchau è uno degli osservatori più attenti, più meticolosi, più preparati, insomma più seri delle vicende degli euromercati e dell'europolitica, e Wolfgang traccia un quadro di come esploderà l'eurozona nei prossimi mesi. Devo dire che sentirglielo, anzi leggerlo da parte sua in maniera così nitida e precisa mi ha fatto venire veramente un brivido. E tenete conto che Wolfgang è convinto che dopo il voto di domenica, i greci votano per la terza volta in 2 anni e mezzo, non si vada a un'uscita della Grecia dall'euro, come invece molti scommettono che i tedeschi abbiano già deciso. No, Wolfgang Münchau dice assolutamente no, si riuscirà, il suo cronoprogramma, la sua ipotesi è che si riesca a tenere la Grecia dentro, naturalmente concedendole un allentamento dei termini, perché a questo punto bisognerà concedere ai greci, agli irlandesi, ai portoghesi lo stesso allentamento che è stato consentito nelle procedure e nei tempi di rientro del deficit e del debito agli spagnoli. Eppure ciò malgrado Wolfgang Münchau sullo Spiegel scrive che poiché a quel punto tutta la dotazione dell'ESM entro fine anno dovrà praticamente andare al sostegno della Spagna, non ci sarà altro spazio, altre munizioni finanziarie per sostenere altri che forse Cipro. E la sua previsione purtroppo è che l'Italia a quel punto si avviti in una depressione ancora più grave, che il governo Monti perda supporti e che quindi a quel punto l'Italia entri stabilmente per qualche settimana oltre la soglia dei 500 punti di spread, che sono quelli, l'allarme rosso. Ricordo a tutti che la Spagna ha retto 10 giorni oltre quota 500 prima di essere costretta agli aiuti, la Grecia 16 giorni oltre quota 500 di spread prima di essere costretta agli aiuti, per Portogallo e Irlanda i tempi furono più lunghi, 24 giorni e 34 giorni, per noi la stima di Wolfgang è che basteranno 8 giorni oltre quota 500 e l'Italia va aiutata, arrivano i famosi elicotteri che vi ricordate tanto tempo fa ci indussero a mettere questa sigla dei Doors semplicemente perché tutti fossero richiamati alla loro consapevolezza. Lo dico senza nessun punta di soddisfazione, ma con un'enorme preoccupazione per quello che può avvenire nelle prossime settimane. Handelsblatt stamattina scrive che in realtà i grandi giornali europei si illudono di tutte queste novità che potrebbero venire dal vertice, dal Consiglio europeo di fine giugno, 2 settimane dopo il voto greco. Si illudono perché riporta per esempio le dichiarazioni di ieri del ministro delle finanze olandese, che dicono che la stessa unione bancaria, su cui sembrava che i passi fossero molto più avanti, cioè la supervisione comune e strumenti di intervento comune per salvare il maggior numero di banche di sistema europeo, ma con gli stessi criteri, non più a livello nazionale come abbiamo sbagliato a continuare a fare dopo Lehman Brothers. Eppure ieri il ministro delle finanze olandese ha buttato un bel secchio d'acqua ghiaccia dicendo che anche su questo al massimo è un obiettivo di lungo termine, che per gli olandesi, da quello che hanno capito a Berlino, non si è disposti a votare neanche questo. E quindi vedremo nei prossimi giorni. Oggi c'è il bilaterale italo-francese con Hollande e Monti, e più avanti, ricordo a tutti, lo scadenzario è voto greco domenica, i due giorni successivi Messico, G20, Stati Uniti e Cina, che prendono un po' a schiaffi gli europei dicendo piantatela di fare casino, perché altrimenti fate esplodere una frenata mondiale ancora più grave di quello che ci avete già imposto. Poi l'incontro a 4, in cui oltre a Hollande e Monti, che già si vedono oggi, ci si rivede con Merkel e poi alla fine l'euroconsiglio. Mi fermo qua per questa preoccupazione iniziale, ma ieri abbiamo avuto una novità, lo sapete, ne parliamo nella seconda parte della trasmissione tra poco. La novità è di un Monti che ha annunciato finalmente l'avvio di dismissioni pubbliche per abbattere il debito pubblico. Doveva farlo, lo sentite dire da questi microfoni da sempre, dal primo giorno, all'atto costitutivo del suo governo, invece di premere a tavoletta sull'acceleratore del conto economico, cioè della pressione fiscale aggiuntiva su chi già paga tasse record in Italia. Lo ha fatto con una frase molto contorta, in cui leggo odore sul furio di frenate della ragioneria generale. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, quindi fermi lì coloro che fossero attirati da questo, perché cominciamo invece con classico esempio dell'Italia pubblica che dice di volere il merito e poi non è capace di praticarlo. Abbiamo con noi Fabio Pammolli, che è direttore dell'IMT Alti Studi Lucca e presidente del CERM. Spesso abbiamo fatto ricorso a lui in questi anni. C'erano un centro studi competitività, regolazione e mercati, all'interno del quale si elaborano le proiezioni attuariali secondo me più accurate in Italia, per esempio sui costi della sanità pubblica, sui costi della previdenza pubblica. Stiamo parlando, l'IMT Alti Studi di Lucca è un centro di eccellenza del più elevato livello nel perimetro di chi offre PhD post universitari nel nostro paese. E ieri, quando abbiamo visto sul Corriere della Sera un bel articolone che diceva IMT la super scuola aperta al mondo obbligata a rifiutare i docenti stranieri, perché ovviamente l'inglese è la lingua base, ma purtroppo le regole impongono professori italiani, abbiamo detto no, questa volta dobbiamo chiedere al professor Fabio Pammolli, che tra l'altro appunto l'eccellenza la offre agli altri, ha costruito percorsi organizzativi e di eccellenza di studio per offrire agli altri studenti italiani, ma studenti anche dall'estero ovviamente, perché questo è il modo in cui bisogna organizzare l'eccellenza. Ma è giovane anche lui, per una volta ho detto gli dobbiamo chiedere non tanto di parlarci di quello che elaborano con i numeri all'interno del CERM o di LMT di Lucca, ma dobbiamo chiedergli di parlare del problema che si riscontra e si verifica all'IMT di Lucca. Quindi è con noi qui, io lo ringrazio, Fabio Pammolli, e cerca un secondo di spiegarci come e perché possa sussistere un paradosso di questo tipo, cioè un istituto di eccellenza che però con l'inglese lingua base, dopo che avevamo letto che finalmente c'era il Politecnico anche qui a Milano che diceva inglese lingua base, ci sono state immediate reazioni dicendo no, non è vero, non è giusto, però voi non potete assumere naturalmente docenti stranieri. Come e perché? Buongiorno a Pammolli. Buongiorno. Beh, innanzitutto l'articolo di ieri di Gian Antonio Stella coglie un problema e lo coglie con lucidità. Noi abbiamo reclutato per posizioni permanenti italiani che scientificamente sono tutti estremamente bravi, direi, e che sono stati attratti a tornare in Italia perché sono italiani, e quindi siamo riusciti a prendere sui job market per posizioni permanenti persone che erano esuli o che erano profughi e li abbiamo attratti, e questo è già un risultato importante. L'articolo di Stella ci dice però una cosa generale e una invece specifica all'istituto. La cosa generale, per quanto non esplosa in quell'articolo, è che le modalità che il sistema italiano si è dato, il sistema universitario italiano si è dato nel tempo per selezionare i propri docenti, e quelle che a mio avviso sta dandosi anche oggi, sono aperte nominalmente alla competizione internazionale, ma sono di fatto modalità che impediscono una vera apertura alla competizione internazionale per le cattedre in Italia. Cioè la chiamata di studiosi dall'estero diventa una specie di lusso che si concede ogni tanto con chiamate dirette dall'estero, che peraltro prevedono un iter di approvazione del Comitato Universitario Nazionale del Ministero, benissimo, ben vengano, ma non sono state queste aperture internazionali, non è stata incorporata e diventata un punto di riferimento per disegnare le call, per disegnare le selezioni. E le selezioni continuano a essere quelle dei concorsi pubblici italiani. E io invito a leggere i testi dei decreti che disciplinano queste prassi per capire due cose. Primo, che un singolo istituto di ricerca non è nella condizione di fare offerte al tempo giusto. Potrà sembrare una cosa banale e potrà sembrare una cosa secondaria, ma se io identifico attraverso una call internazionale, attraverso un iter di vera analisi dell'interesse di un'istituzione per uno studioso, per un gruppo di studiosi, dei candidati, beh, quei signori hanno la loro carriera, la loro vita, vogliono sapere da me che offerta gli faccio, quando gliela faccio e quando cominciano a lavorare. Se io comincio a dire, guarda, devi leggere il comma 4 dell'articolo 3 della legge numero per sapere quali sono i requisiti e forse ci sarà un'apertura l'anno prossimo, ma non ne siamo sicuri, io vorrei capire che modalità di tenure track, quindi di prospettiva di carriera per dei giovani studiosi che sono venuti a lavorare in Italia e che si aspettano di poter avere delle opportunità di crescita, e soprattutto che modalità di attrazione di studiosi che italiani non sono e quindi ai nostri barocchismi, anche per una ragione proprio culturale, non sanno proprio di cosa stiamo parlando. Beh, questo a mio avviso significa definire un linguaggio e definire modalità che impediscono nella sostanza non di attrarre il singolo studioso che per ragioni esistenziali, per ragioni di interesse, per ragioni, le ragioni possono essere mille, ma è un evento casuale, non disegnato, non ricercato. E questo è un punto che a mio avviso ci induce a pensare che quando si disciplinano analiticamente attraverso dei concorsi pubblici degli iter che dovrebbero essere ricondotti alla responsabilità patrimoniale, finanziaria, gestionale delle singole strutture di ricerca e si va verso un modello che appunto per punirne forse non uno ma magari 20 impedisce a 100 di lavorare, questo è un impianto che danneggia il sistema universitario italiano e danneggiandolo, e io so che sarò contraddetto per quello che dico, so che sarò criticato, so che mi sto assumendo anche una responsabilità nel dire ciò che sto dicendo e desidero farlo però, perché mi sembra importante nella compostezza istituzionale che è dovuta a chi ricopre incarichi di responsabilità dentro il sistema universitario, segnalare per tempo, forse anche troppo tardi, questa anomalia che persiste nel nostro paese. Faccio solo un piccolo esempio: noi abbiamo operato in questi anni con un pre-screening dei candidati, abbiamo fatto delle selezioni che hanno pubblicato delle call, degli annunci a livello internazionale, raccogliendo diverse centinaia di domande per ogni posizione, e faccio un esempio di una selezione che non è andata bene per noi. Abbiamo invitato alcuni candidati a fare l'ultima fase di questo iter, che era quella di un seminario di ricerca davanti a tutta la faculty della scuola, davanti ai ricercatori della scuola. Uno di questi candidati, che apparentemente presentava un curriculum valido, è stato letteralmente dissezionato e distrutto durante un seminario di ricerca dai nostri giovani leoni, che facendogli domande, sollevando questioni, hanno messo in evidenza dei limiti che noi non potevamo inferire dalle pubblicazioni, non direttamente. Ebbene, questa persona non ha preso una posizione da noi e non l'ha presa perché, tra virgolette, gli ultimi della classe, cioè quelli che in un sistema gerarchico sono quelli che contano nulla e non i membri della commissione, hanno portato in evidenza dei limiti scientifici. Questa per me significa, con questo piccolo esempio, fare la selezione, esporre alla pubblica piazza le qualità e le candidature e dando responsabilità alle strutture. La codifica implica un linguaggio che non è quello della della scienza. Ecco, quindi questo onore a lei, professor Famoli, perché come forse i nostri ascoltatori non troppo esperti di cose universitarie ignorano, in realtà all'interno del sistema universitario abbiamo faticato anni per mettere a punto dei sistemi sui quali le rappresentanze dei docenti universitari fossero convergenti con il Ministero per il concorso alla valutazione della qualità dell'offerta da parte dei docenti universitari, anche degli studenti, raggiunto infine la faticosa convergere verso la metodologia, questo criterio attualmente è seguito con il piccolo, che a me fa crepare dalle risate, però difetto, che queste valutazioni vengono tenute rigorosamente riservate e i capi dipartimento come prese dei rettori non possono, sottolineo, non possono farne alcun uso nei confronti dei colleghi docenti. Quindi da questo punto di vista non è un metodo di valutazione, al mio paese è una presa per i fondelli. Io infatti rido sempre, è un'università con cui come modestissimo contrattista collaboro, perché dico avete perso tutto questo tempo per prendere in giro gli studenti, perché di questo si tratta. Allora, la sintesi, come spero tutti abbiate capito di quello che ci ha spiegato il professor Pamolli, alcuni mi chiedono che cos'è IMT e MIT al contrario, no, è la sigla di è Institute for Market Technologies. In effetti sì, è un po' la volontà di fare un MIT in Italia, e per farvi capire quanto è aperta la struttura a studenti e ricercatori, per 48 posti le domande di iscrizione sono limitate, ovviamente non stiamo parlando di un campus per centinaia o per migliaia di persone. Le domande di iscrizione per 48 posti sono state 1439, in più di 8 casi su 10 sono venute da ragazzi di altri paesi, come potete immaginare. Quindi la selezione è molto elevata, è la qualità della selezione è molto elevata per accettare gli studenti. I ricercatori sono 26, dei quali 15 sono italiani, in buona parte con specializzazione all'estero. Il problema qui è che invece per i docenti, poiché bisogna pescare obbligatoriamente con il meccanismo del concorso, i docenti possono essere solo italiani. Allora, poiché nelle graduatorie delle migliori università italiane all'estero è pieno di docenti italiani che vanno a insegnare all'estero e non tornano spesso in Italia, l'idea che noi tuteliamo al meglio la categoria, per così dire, con il vincolo di mettere in cattedra solo italiani nei punti pochi che abbiamo, che dobbiamo espandere, di eccellenza post-universitaria nel nostro paese, è chiaramente un errore, come sa chiunque abbia a che fare con le strutture di eccellenza nella formazione. Ed è un errore figlio di una impostazione omologante della pubblica amministrazione statale, che crede che si tuteli al meglio un docente universitario se gli si dà l'omologa della qualifica di pubblico dipendente e pubblico funzionario, dimenticando per esempio che il meglio delle università pubbliche, parlo della parte pubblica, non di quella privata, pubbliche come anche negli Stati Uniti ce ne sono, UCLA in California è pubblica, Berkeley è pubblica, a differenza delle altre grandi università private della Ivy League, quelle sono pubbliche, ma anche all'interno delle università pubbliche le regole, per esempio, per il salario della tenure della cattedra sono del tutto analoghe a quelle delle grandi università private, cioè esiste un meccanismo di incentivazione a livelli molto variabili di compenso per la tenure, che tiene conto del track record sia del miglioramento dell'offerta agli studenti, certificata con quanti vengono assunti entro il primo anno e a quale primo salario, statistiche che vengono pubblicate e che servono all'orientamento per le famiglie e per i giovani, che in Italia naturalmente ignoriamo, sia con un incentivo su quanto denaro privato riesce a far convergere in investimenti in attrezzature o in progetti di ricerca che sono connessi alla tua cattedra. E questo essendo un dipendente pubblico, ma accettando una dinamica di premio e di merito di obiettivi dichiarati ex ante e verificabili ex post. Con questo criterio capite che non ha più senso, se si adotta questo criterio, che è il criterio del merito vero, dell'eccellenza vera all'interno del perimetro pubblico, non ha più nessun senso dire prendiamo solo italiani perché serve il concorso pubblico come unico bacino a cui attingere. Questo abbiamo tentato di farvi spiegare da Fabio Pamolli, sperando che ve ne convinciate che un giorno o l'altro qualcuna di queste idee faccia breccia nel Moloch pubblico. 9 in punto. la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Nel frattempo è in corso un intervento del cancelliere Angela Merkel al Bundestag tedesco e tra le cose che ha detto il cancelliere germanico è che la Germania è forte, ma la forza della Germania non è infinita. E infine che sono giorni decisivi, vediamo un po' che altro dicono qua. No, insomma, non mi pare. Il protezionismo impedisce la crescita, queste sono dichiarazioni più di circostanza. Che la forza non sia infinita non ha a che vedere con Star Wars, ovviamente, ma ha a che vedere con il fatto che qualche limite il cancelliere tedesco inizia a vederlo. C'è anche una dichiarazione del vice premier di Israele che dice meglio bombardare l'Iran che la bomba atomica dell'Iran. Queste sono parole del vice premier Moshe Yalon, che è dell'Likud, un ex generale. Mi sembrava che non ci fosse solo la confusione europea nel mondo, ci sono anche altri bacini ancora più preoccupanti. Allora, ieri il Presidente del Consiglio Monti ha scoperto dopo 6 mesi quello che doveva prendere come autostrada nella sua prima dichiarazione al Parlamento, dicendo che l'elevato debito pubblico italiano si affronta con dismissioni patrimoniali pubbliche, non con il conto economico, perché non possiamo andare a tavoletta con più pressione fiscale, visti i livelli record che già pagano gli italiani. Invece il governo questo non lo ha fatto, arriva solo dopo 6 mesi alle dichiarazioni che ho trovato sui giornali di oggi, in cui con molta circospezione, con una frase piena di parentetiche e di incidentali, il Presidente del Consiglio ha annunciato durante la sua visita a Berlino l'avvio di 2 veicoli per avviare alla messa a reddito. La prudenza nel non dire cedere la conosco da anni, perché da anni conosco il no da dove proviene. È interno all'amministrazione pubblica, è interno alla Ragioneria Generale dello Stato, è interno al Tesoro. Il Tesoro in questi anni come struttura amministrativa si è opposto con tutte le sue armi ad affrontare la strada per cui il debito pubblico che ha fatto lo Stato deve essere abbattuto con ciò che sta nel perimetro patrimoniale dello Stato. Ha fatto rimbalzare tutte le proposte che avevamo portato lì, anche se a elaborare erano state primarie banche italiane internazionali e Mediobanca. Quindi ci sono nei cassetti del Tesoro tutte queste proposte. Questi 6 mesi persi sono stati un delitto ed è un errore aver buttato l'Italia in una recessione ancora più grave, facendo l'80% delle misure triennali di miglioramento dei saldi da più tasse. Se la strada imboccata da ieri da Monti, che saluto con gioia perché ogni giorno ve l'abbiamo ripetuta, non viene però percorsa con tutta la decisione del caso, ma si ferma a sì, vedremo alla luce degli errori di SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3 le cessioni di immobiliari fatte nei governi del centrodestra che erano pieni di errori e che in effetti rivelarono un mucchio di lentezza e di errate valutazioni nel come si faceva questa roba. Ma se non lo si fa in fretta, pescando da progetti che già esistono, con il conferimento in un fondo immobiliare chiuso di tutto quei 500 miliardi che trovate negli attivi patrimoniali cedibili da mettere a reddito, più di 800 del totale, pari quasi al totale del debito pubblico degli attivi patrimoniali stimati nel conto patrimoniale del Tesoro. Se non lo si fa con grande decisione, dalle modalità con cui ha parlato ieri Monti, vi posso certificare che questa roba non andrà da nessuna parte, perché le resistenze pubbliche a spogliarsi degli attivi sono formidabili, perché da sempre vi hanno detto che quella roba non bisogna cederla, perché è meglio così, perché così è la garanzia di che? Di poter ripagare il debito? No, di continuare a farne. Questo è ciò che pensano in ragioneria. Questo è ciò che pensano. E vi diranno che il più appartiene agli enti locali, che è molto complicato mettersi d'accordo. Se mai si comincia, mai lo si fa. Questa è la mia risposta. Allora, in questo ambito, ieri, cioè nell'ambito di come vincere le resistenze molto forti all'interno dell'apparato amministrativo, non politico, che induce alla continuità inerziale del peggio della nostra politica economica, ieri un collega della stampa che chiamiamo spesso, ha fatto uno scuppone, come si dice in termini giornalistici, un colpaccio. Perché a proposito di spending review, e anche lì speriamo che capiscano che non deve essere pari allo 0,57% il totale della spesa corrente per il 2012, visto che la media delle imprese italiane è alle prese con turnaround di 20, 30, 40 punti del proprio conto economico, forse lo Stato può fare molto di più che lo 0,57%. Ma uno dei punti per la spending review è quello che ha portato alla nomina di una specie di commissario esterno tecnico al governo dei tecnici, il professor Francesco Giavazzi. Il professor Francesco Giavazzi incaricato di portare chiarezza su quale fosse la quantità degli aiuti dati dallo Stato alle imprese per vedere di razionalizzare e abbattere anche quelli. i numeri di questa posta da anni e anni non si era mai riusciti a capire quali fossero, perché c'era una grandissima resistenza, appunto, ancora una volta, della ragioneria e dell'apparato amministrativo centrale dello Stato a far capire a chiunque a quanto ammontassero gli aiuti e incentivi per le diverse leggi di incentivo statale e regionale e per le diverse tax expenditures, i diversi regimi di incentivo fiscale esistenti, sono molte centinaia esistenti oggi in Italia, quanto fosse la cifra, a che andassero e perché. Allora, ieri questo collega Alessandro Barbera è riuscito a mettere le mani su un documentazzo che fa giustizia di molte chiacchiere che volano su questo, e quindi l'ho invitato, lo ringrazio Alessandro Barbera, e ti cedo il microfono per dire, da questi numeri che hai pubblicato ieri, che cosa si capisce. Innanzitutto, incentivi all'impresa, abbiamo capito quanti sono 33 miliardi, 2 punti di PIL, e però ti lascio il microfono per spiegare quanti vanno ai privati, quanto ai pubblici, chi sono, come, perché e quanti se ne può portare a casa. Intanto bravo e ti batto le mani, perché gente come te è un onore per chi fa sto mestiere. Grazie, buongiorno. Dunque, sono 33 miliardi, lo hai detto tu, 30 di questi non sono incentivi alle imprese, banalmente sono trasferimenti netti ad aziende pubbliche in buona sostanza. Sono soldi che vanno per metà, vengono trasferiti direttamente dallo Stato, per metà dalle regioni, dalle province, dai comuni. Sono 2 punti di PIL che vanno ovunque. Ci sono 4 miliardi di trasferimento diretto annuo che noi paghiamo alle ferrovie. Ricordo che nel frattempo le ferrovie hanno raddoppiato il costo dei biglietti, sembrerà populistico dirlo, ma è bene ricordarlo. Ne prende un altro miliardo solo per le infrastrutture ferroviarie, ci sono dei mutui accesi per le ferrovie, ci sono fondi per l'acquisto di materiale bellico, ci sono soldi per i mutui, per l'acquisto di navi della Marina, 400 milioni che trasferiamo ogni anno alle poste, 400 milioni che trasferiamo ogni anno al mondo dell'autotrasporto, che viene banalmente sussidiato sempre a fondo perduto. C'è di tutto tranne che incentivi alle imprese che innovano. Questa vicenda è incredibile per almeno 2 motivi. Il primo motivo è di merito, appunto, è incredibile che in un paese come questo ci siano 33 miliardi di trasferimenti netti, 30 dei quali vanno ad aziende pubbliche, e non sono fra l'altro gli unici soldi diciamo, che le aziende pubbliche, le municipalizzate e le imprese pubbliche ricevono. L'altro aspetto, che forse è ancora più grave, è di trasparenza, cioè Mario Baldassarri, che è stato vice ministro all'economia, è un economista, è un senatore attivissimo su questi temi, ha atteso 10 anni per avere questa tabella. Sono 10 anni che lui chiedeva di sapere a quanto ammontassero e come fossero distribuiti questi fondi. La ragioneria non ha mai dato questi dati, finché evidentemente nei ministeri che questi dati li potevano avere, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, dove adesso c'è Passera, e quello del Tesoro, dove ci sono Monti e Grilli, evidentemente sono arrivati ministri che hanno deciso di fare chiarezza su queste poste. È incredibile, ed è il segno di come l'amministrazione pubblica e all'interno della ragioneria sia autoreferenziale e quanto sia opaco il bilancio dello Stato italiano. Ora, io non pretendo che il bilancio dello Stato italiano sia come quello di una società quotata di cui dobbiamo sapere ogni virgola ogni 3 mesi, però ci vorrebbe un diverso grado di trasparenza e soprattutto di organizzazione per competenza delle poste. Non possiamo dire che esistono 33 miliardi di incentivi alle imprese e poi scoprire che alle imprese di questi soldi va meno di un decimo. Alle imprese private, naturalmente, va meno di un decimo. E poi magari porsi anche il problema: ma che senso ha che noi diamo quasi mezzo miliardo di euro in questa maniera alle poste, quando le poste, voglio dire, con quello che raccolgono in realtà, con quello che raccolgono, cioè il deposito del risparmio postale, alimentano uno dei grandi polmoni che da sempre ha ditato la Cassa Depositi e Prestiti, di liquidità garantita, e quella che serve a fare i mutui al totale delle amministrazioni pubbliche italiane, e quella che questi anni si è dato a nuovi sviluppi. E noi dobbiamo dare, con le poste in attivo, mezzo miliardo l'anno ancora alle poste. E poi non so se prendermela con Moretti o prendermela con l'azionista pubblico, io me la prendo con l'azionista pubblico, ma perché non fare una scelta precisa per Ferrovie, tra di una separazione netta tra le attività di Ferrovie dello Stato, quelle rivolte a puro mercato e concorrenza, l'alta velocità, dove deve essere messa in condizioni di farlo come lo fa, ma per tutto il resto dobbiamo tenere miliardi e miliardi ogni anno senza saperlo di trasferimenti alle Ferrovie, che poi nel conto economico invece ci dicono di essere inutili. Del documento c'è anche, si capisce anche che c'è un'ipotesi di razionalizzazione, una o più, Alessandro Barbera, e di che tipo? Cioè si capisce come Giavazzi potrà intervenire e far confluire quindi le sue proposte all'interno della spending review, e c'è una distinzione rispetto agli interventi di Corrado Passera al Ministero delle Attività Produttive, oppure no? Bisogna distinguere le due cose. Passera ha fatto una prima proposta, che fra l'altro è stata bocciata dalla ragioneria, che prevedeva sostanzialmente la trasformazione delle poste di sua competenza, cioè sotto il diretto controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, perché di questi 33 miliardi in realtà lo sviluppo economico ne può controllare 1,5 miliardi circa, il resto passa tutto dal tesoro della ragioneria. Allora la prima ipotesi di Passera era di mandare a esaurire gli strumenti di incentivazione esistenti per circa 1,5 miliardi e di sostituire questi strumenti con un credito d'imposta automatico per la sola innovazione e ricerca tecnologica. E questa, diciamo, è la proposta ufficiale anche di Confindustria. Rinunciamo a tutto, attenzione, e facciamo incentivi automatici solo per la ricerca. Attenzione, però stiamo parlando di 1,5 miliardi e alla ragioneria non è andata bene nemmeno questa proposta, perché dicevano, hanno detto che mandare ad esaurimento gli strumenti esistenti non si può fare perché costa troppo, perché significherebbe finanziare il credito d'imposta. Alt, fermo, questa è la classica risposta della ragioneria. Allarme rosso per voi che siete in ascolto. La ragioneria, di fronte a chiunque che dice questa roba deve finire come funziona oggi, bisogna farla in quest'altro modo che costa molto di meno, circoscritta su obiettivi dichiarati con procedure automatiche, trasparenti e non discrezionali, e che sia tutto pubblico e non allegato imposte del bilancio costruite da voi per rendere imperscrutabili, la risposta che si sente dare è sempre quella che adesso sta ricordando Alessandro Barbera, opposta al ministro che diceva facciamo cadere tutto questo sistema barocco e concentriamone solo una parte in incentivi automatici alla ricerca in imprese private vere. La ragioneria dice: eh no, mica si può far finire il regime attuale da un giorno all'altro, ma avete presente il contenzioso, avete presente che quindi bisogna mantenerlo in piedi fino a che va a esaurimento, e allora se bisogna mantenerlo in piedi finché va a esaurimento, la tua proposta di razionalizzazione ha bisogno di un finanziamento aggiuntivo, e io come ragioneria ho l'obbligo di dirti no. Ecco come fanno a mantenere tutto nella loro inerziale continuità, sono i veri guardiani della conservazione pubblica che inerzialmente si estende, ma come dicono loro. Naturalmente questa è una mia postilla interpretativa dovuta alla mia esperienza, e non è la voce di Alessandro Barbera, che è molto più pacato. Ti ho interrotto, riprendi da dove ti ho interrotto. Quindi Passera voleva fare questo, la ragioneria generale ha detto no. E allora come si può fare? Passera ha trovato una soluzione che dovrebbe essere quella che dovrebbe confluire nel decreto che dovrebbe essere approvato nel Consiglio dei Ministri, che è una mini incentivazione per l'innovazione e la ricerca che vale circa il 35-40% di quanto si spende in quella cifra, più uno sgravio per chi assume personale altamente qualificato. La proposta di Giavazzi, che ancora non conosciamo nei dettagli, ma che pare che sia arrivata negli ultimi due giorni, probabilmente ieri, sul tavolo di Passera e di Monti, è una proposta invece drastica. Giavazzi dice di azzerare completamente questo sistema di incentivazione, non solo, e perché questo è il motivo per il quale è stato scelto da Giavazzi, non per pestare i piedi a Passera, perché Passera non ha il potere di intervenire sui fondi del tesoro, ma proprio per fare una proposta che riguardi l'intera mole degli incentivi che sono in capo al tesoro. Ebbene, Giavazzi quindi parla di tutta la mole degli incentivi, che sono 33 miliardi, e dice azzeriamo tutto, ripartiamo da zero. Io credo, se posso permettermi di dire la mia, che questa sarebbe la soluzione più giusta, perché è assurdo continuare a tenere in piedi un sistema di contabilizzazione delle voci così, per cui si mescolano soldi alle aziende municipalizzate, alle scuole private, perché le regioni danno anche questo, dentro a quella voce ci sono anche soldi per le scuole private da parte delle regioni. Bisogna totalmente fare piazza pulita di questo sistema poco trasparente e opaco di gestione delle risorse, bisogna ripartire da zero, naturalmente non dicendo che da domani smettiamo di fare trasferimenti nelle ferrovie, non voglio far preoccupare Moretti se fosse all'ascolto, ma naturalmente forse rimettere in discussione l'entità di quei trasferimenti, perché non è detto che le ferrovie abbiano bisogno di 7 miliardi di trasferimenti netti l'anno. Io mi chiedo perché il contribuente debba pagare il biglietto del treno per fare un Bologna-Roma o un Milano-Napoli, il doppio di quello che lo pagava un anno fa, e poi scoprire che però continuiamo a trasferire tutti questi soldi alle ferrovie. Allora, c'è una domanda per la quale adesso dobbiamo andare all'informazione stradale, ti chiedo da subito poi di rispondere, perché i nostri ascoltatori hanno capito che sono 3 miliardi su 33 miliardi, e ho l'obbligo di dirvi che anche in quei 3,3, 1,7 poi sono per forniture militari, quindi la parte veramente privata è 3,3 meno 1,7, se ho capito bene la tabella, però i nostri ascoltatori chiedono da Alessandro Barbera, fuori nomi a chi vanno delle imprese private, e io chiedo a lui, perché qui non c'è nessun mistero, non è che arriva Confindustria, io dico, come vedete sono pochi e basta, fuori i nomi. E tornano anche puntuali e precisi i Doors, ovviamente. Allora, eravamo rimasti al... la Merkel nel frattempo al Bundestag ha detto che non possiamo scegliere soluzioni facili, sì, però speriamo che almeno qualcuna delle soluzioni si scelga, perché sennò non ci troviamo. Allora, i nomi delle imprese private, perché altrimenti mi accusano di voler stendere tutto sotto un velo pietoso. Invece, i nomi si riescono a capire da questa relazione, Alessandro? Assolutamente no, ma questo è l'altro aspetto grottesco di questa vicenda. Noi sappiamo quali sono le aziende pubbliche che ricevono questi fondi, ma i fondi privati sono regolati, e faccio una piccola puntualizzazione alle cose che dicevi prima, sono 3 miliardi in tutto, di cui 1 miliardo e mezzo dello Stato al netto di quello che dicevi dei fondi della difesa, e 1 miliardo e mezzo che più o meno vengono distribuiti alle regioni. Perché non sappiamo a chi vengono distribuiti questi fondi? Primo, perché le leggi di incentivazione alle quali si può chiedere, alle quali ci si può, diciamo, attaccare, a cui ci si può fare richiesta, sono più di 100 solo a livello statale, e sono sovrapposizioni di leggi che hanno alcune delle quali 50-60 anni di vita. A livello regionale queste leggi di incentivazione sono addirittura 800. 800, sì. 800. Quindi non solo c'è un problema di trasparenza serissimo, ma c'è un problema anche di enorme sovrapposizione di norme. Una delle proposte